In questi tempi complicati abbiamo pensato di usare la nostra voce per parlare di cambiamenti che attraversano le città. La metropoli della rendita, del greenwashing, del tecnocapitalismo sembra un Moloch in grado di regolare le nostre vite fisiche e penetrare il nostro immaginario. A questo punto ci tocca ragionare partendo da una domanda, se possibile radicale. Che cosa significa affermare il diritto alla città oggi? La nostra indagine parte da Milano, il luogo in cui viviamo, e si espande al resto dell'universo, non perché Milano sia il centro dell'universo, ma perché ogni modello è replicabile in scala e ogni situazione particolare ne contiene una più grande, che ci coinvolge tutti. Questo podcast si chiama Fuori Fase. Le musiche sono di Le Gros Ballon e lo produce il collettivo politico Off Topic Lab. Questa puntata parla di Covid e scuola e lo fa con le educatrici e i professori di Milano in lotta, priorità alla scuola, medicina democratica e rappresentanti dell'unione sindacale di base. Ieri mi sono messa a piangere in video lezione ed è dovuta intervenire addirittura mia madre. Stavo facendo lezione d'arte e la prof aveva la connessione che andava malissimo, quindi vedeva tutti noi a scatti. Mi ha accusata di usare non so quale applicazione, urlandomi contro e umiliandomi, quando io in realtà non avevo nessuna applicazione. Le interrogazioni in DAD ti fanno girare di lato con la sedia, o proprio in piedi, di spalle al PC, o rivolti verso la parete con il volto. Io la prossima settimana ho un'interrogazione. La professoressa ha già avvertito la classe che faremo l'interrogazione con gli occhi chiusi. Speriamo non ci faccia bendare. Anche il nostro prof di storia ci fa tenere le mani in alto, ci fa allontanare dal PC e ci fa togliere le cuffie. Quindi noi dobbiamo urlare e magari chi in casa sta con fratelli o sorelle disturba la loro lezione. Ci fanno fare 5 ore di lezione e in più la lezione che ci danno da fare è tutta sullo schermo. A causa di questo ho dei mal di testa e degli occhi rossi che sembra che abbia fumato tutta l'Olanda. Non riesco a dormire per lo stress di tutti i compiti che ci danno ogni giorno, per il giorno a seguire, e in più sono così stressata che non mangio quasi più. Fine. Quelle che abbiamo appena sentito sono le voci di alcuni studenti di scuola superiore che nell'ultimo anno hanno vissuto la maggior parte della loro vita scolastica in DAD, didattica a distanza. L'Italia è il paese in Europa che da inizio emergenza Covid ha tenuto le aule chiuse più a lungo. È la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che il sistema educativo nazionale si ferma così a lungo. Altri eventi del passato hanno causato l'interruzione della didattica, la febbre spagnola ad esempio, o la grande crisi economica del 1929, che ha portato i ceti sociali più poveri ad abbandonare definitivamente la scuola. Per descrivere gli effetti di lungo periodo dell'abbandono scolastico o della chiusura del sistema educativo, gli storici hanno coniato il termine effetto cicatrice, ferite i cui segni saranno visibili solo col tempo, spesso causando problemi a distanza di decenni, come le cicatrici. Certo, nella prima pandemia dell'era digitale, la grande differenza col passato è la possibilità, data dalle tecnologie comunicative, di non interrompere del tutto la didattica, ma trasferirla appunto a distanza. Ma è davvero sufficiente questo per evitare ferite e cicatrici in futuro? E quali sono le conseguenze più dirette di questo modello didattico? Il Covid-19 è al contempo un alibi e una manna per i fautori di questo nuovo modello di scuola. Perché? Perché innanzitutto durante la pandemia l'utilizzo coatto, necessitato dei device tecnologici apre la strada ancora più della precedente strategia dell'alternanza scuola-lavoro direttamente ai privati, però a quelli grossi, cioè alla Google Mafia, ai grossi provider, ai colossi che hanno il monopolio della gestione della tecnologia. effettivamente il MIUR e le singole scuole hanno stipulato dei protocolli per cui affidano non soltanto la gestione, ma anche le misure di controllo agli stessi soggetti privati che hanno fatto le loro fortune sulla vampirizzazione illegale dei dati personali e sulla rilevazione dei comportamenti residuali. In più c'è l'impostura dell'inclusività attraverso la distribuzione dei device. Il MIUR ha investito migliaia di euro in LIM, tablet, PC, al di là del fatto che molti device non sono arrivati capillarmente come descritto e strombazzato nei telegiornali, c'è anche da dire che la semplice presenza nella vita di uno studente del mezzo tecnologico non assicura che questo mezzo tecnologico possa essere utilizzato al meglio. Occorrerebbe anche una sorta di tutoraggio, di aiuto da parte dell'ambiente di vita che non sempre, appunto, anzi mai, prescinde dal censo, dal grado di acculturazione, dalla capacità di gestire la lingua, o pensando ai disabili, alla possibilità di venire accompagnati in questa modalità. Quindi le tecnologie, lungi dall'essere inclusive, hanno scavato un solco profondissimo, fra la popolazione studentesca. La didattica a distanza serve a chi non ne ha bisogno. Questa è la sintesi che ne trae chi lavora nel settore. Agli studenti che hanno un rendimento medio-basso o difficoltà di apprendimento, la didattica a distanza frappone ostacoli assai più insormontabili di quelli che potevano essere risolti in presenza. Nel suo carattere di acceleratore di processi sociali ed economici già in corso, l'epidemia di Covid e quindi il ricorso alla DAD lascia intravedere un modello possibile di didattica del futuro. L'e-learning assicura una tracciabilità e un controllo perfetto delle relazioni scuola-studente, azzera la fine della dimensione collegiale e ipotizza un massiccio trasferimento di risorse dal pubblico al privato. Pensate come nelle politiche di welfare tutta una serie di fondi che adesso vengono utilizzati per l'edilizia, per il mantenimento delle scuole, per il pagamento dei bidelli, per il pagamento del personale tecnico e dei docenti, potrebbe essere invece reinvestito e riconvogliato nelle tasche dei privati, come adesso stiamo cominciando a fare. Le crisi sono opportunità, dice la teoria economica neoclassica. In questo caso è chiaro che l'opportunità è quella di appropriarsi di un altro settore pubblico e soprattutto di mettere a profitto, secondo canoni aziendali, attività educative il cui valore anzitutto è sociale e culturale. Milano, dopo l'estate, assieme al resto del nord, è uno dei territori in cui maggiore è stata la crisi di risorse per le scuole, che si sono trovate a dover ripartire in condizioni di cronico sotto organico e senza quella ristrutturazione e ampliamento delle strutture promesse dall'assessore all'edilizia scolastica Limonta entro l'estate. A Milano sono arrivati 1.262 collaboratori scolastici, i cosiddetti commessi, 1.203 educatrici o educatori all'infanzia, 108 invece docenti alla primaria e 55 alla secondaria di primo grado. Ecco, rispetto ai bisogni delle scuole di Milano, sicuramente le risorse attivate sono completamente inadeguate, anche perché ricordiamoci che questo organico Covid non può essere sostituito in tutti quei casi dove, per esempio, appunto, i docenti hanno diritto ad essere sostituiti, quindi la maternità, la gravidanza, eccetera. L'Ufficio Scolastico Territoriale Milano sta procedendo con fatica ed estremo ritardo a coprire i posti ancora vacanti. Questo ha causato, ad esempio, sia l'assenza dei docenti a copertura delle classi in presenza, primaria e secondaria di primo grado, ma anche, per esempio, all'assenza di docenti per le superiori e che quindi, le prime a chiudere, anche in questo caso la DAD. Si è portata avanti di fatto senza i docenti che potessero poi realizzarla. La situazione risulta ancora più drammatica per le scuole di periferia, dove più alto è il tasso di abbandono scolastico rispetto alla media della città metropolitana, e dove proprio le scuole sono le linee di resistenza per le famiglie e per i minori a reddito più basso. È il caso emblematico dell'Istituto Comprensivo Trilussa di Quartoggiaro, 613 iscritti, dove fino a novembre sono stati presenti 5 insegnanti di sostegno su 32 necessari, 14 professori su 41 nel plesso delle medie, 26 maestre su 36 in quello delle elementari. Questo ha costretto a svolgere per il primo mese di scuola solo 3 ore di lezione al giorno, mentre gli studenti delle medie hanno dovuto iniziare più tardi perché il sottorganico scolastico non permetteva loro di frequentare le lezioni. La scelta di utilizzare il precariato per riempire i vuoti di organico cronico della scuola appare quindi ancora una volta una scelta che non intende risolvere il problema alla radice. Vista la situazione di pandemia e di estrema emergenza per le scuole, diciamo che potevano essere assunti tutti i precari con 36 mesi di servizio, affiancando magari un'adeguata formazione. Di fatto in ogni scuola, a Milano più o meno abbiamo in media dai 30 ai 40 docenti precari. I posti comunque messi a bando nel concorso sono comunque insufficienti per coprire tutto il nostro bisogno, soprattutto nella città di Milano e al nord in generale. La carenza di organico non riguarda solo il personale docente. Per gestire una situazione di emergenza pandemica nelle scuole, un'ipotesi sarebbe la reintegrazione del personale medico specialistico all'interno delle strutture, come chiede Medicina Democratica. Se la figura del medico scolastico, sparito ormai da qualche decennio, un po' inconsultamente, visto che indipendentemente dall'epidemia in corso, di sicuro carenze sul versante della prevenzione e protezione all'interno delle scuole si sono viste già. La necessità di supplire con delle figure comunque di ordine sanitario, stante la difficoltà di reperire figure mediche dedicate, diventa assolutamente prioritaria. Sono l'educatrice della scuola dell'infanzia. Vorrei raccontarvi la mia esperienza personale con il problema del Covid e che purtroppo sto vivendo sulla mia pelle, su quella della mia famiglia, perché può essere d'aiuto ad altre colleghe che lavorano come me nella scuola dell'infanzia o nei nidi. Quello che io non capisco è come si siano potuti aprire i servizi all'infanzia con un rapporto 1-25, cioè 25 bambini per ogni sezione, per di più senza mascherina, quando invece a luglio c'erano delle bolle con numeri notevolmente inferiori di bambini per educatrice. Quella che abbiamo sentito è la testimonianza di un'educatrice della scuola d'infanzia, pubblicata in forma anonima per ovviare a eventuali ritorsioni da parte dell'amministrazione. Tra i settori ignorati in termini di investimento in sicurezza prima della seconda ondata e penalizzate dal fallimento del sistema ATS, quello educativo dell'infanzia ha pagato un prezzo molto alto. Per questa ragione, lo scorso 25 novembre, davanti a Palazzo Marino, è stato proclamato uno sciopero organizzato da alcune sigle sindacali, USB, SIAL e SLAI COBAS. È successo che, come se il Covid in questa città in particolare non fosse stato minimamente conosciuto, perché nelle sezioni i rapporti numerici, vale a dire quanti bambini all'interno di una sezione, sia di nido che di scuole dell'infanzia, sono esattamente identici al pre-Covid, a differenza proprio di quello che dichiarò il sindaco un mese fa, che i bambini si contagiano. Prevalentemente sono asintomatici e senza nessuna verifica noi non abbiamo il polso della situazione reale del contagio all'interno delle scuole. Quella della capacità dei più giovani di ammalarsi è una questione controversa. Recentemente, come ha riportato Medicina Democratica, la Società Italiana di Pediatria ha dichiarato che i casi di decessi da 0 a 20 anni in tutto il territorio italiano sono 8 in termini assoluti, mentre il 12% è il numero dei contagi fra i più giovani, quasi sempre asintomatici, ma in grado di trasmettere il virus agli adulti. I contagi che l'amministrazione ha dichiarato tra il personale educativo sono 250, secondo noi è un dato sottostimato. Centinaia e centinaia sono le educatrici in quarantena fiduciaria perché le sezioni vengono chiuse, oltre 300 sono quelle che nel tempo sono state chiuse ad oggi e ci sono stati e continuano ad esserci 5.000 bambini circa in quarantena fiduciaria. Se l'organizzazione del servizio fosse stata diversa, fatta a piccoli gruppi, con le dotazioni organiche necessarie e in continua compresenza, se fossero sostituite le assenze, se non fosse stato firmato un accordo che noi abbiamo contrastato fin dall'origine, nella notte del 29-30 luglio scorso da CGIL, CISL, UIL e CSA, tutto questo probabilmente, anzi senza il probabilmente, non sarebbe, sia in termini di rispetto del diritto, della qualità del percorso educativo per tutte le bambine e i bambini, parlo in particolare dei bambini diversamente abili, più e più bambini diversamente abili inseriti nella stessa sezione con una sola, quando siamo fortunate, educatrice di sostegno. E parlo per tutti gli altri bambini e bambine, esattamente con la stessa condizione di maggiore sicurezza esigiamo rispetto alla salute. Da sempre rivendichiamo che i dispositivi di protezione individuale siano efficaci e sicuramente non sono tali quelli attuali. La mascherina chirurgica, i bambini non portano protezione da 0 a 6 anni, è certamente, no? Normale che sia così. Quindi a maggior ragione chi deve essere maggiormente protetto è il personale che lavora. Noi vogliamo le scuole aperte, le vogliamo in presenza e le vogliamo sicure per tutte e tutti. La situazione al momento per le educatrici rimane instabile, ma quantomeno questa agitazione ha contribuito a portare qualche decina di assunzioni e in dotazione mascherina FFP2, oltre che un camice in più, la cui pulizia però continua a essere responsabilità delle lavoratrici, che se li devono portare a casa per sanificarli dal Covid, col rischio di venire contagiate. Come accadeva agli operai di Casale Monferrato, con le tute sporche di polvere di amianto, operai a cui il patrono Eternit consigliava di fumare di meno. La dispersione scolastica in Italia, ovvero i giovani che appena fuori dall'età dell'obbligo lasciano gli studi con la sola licenza media, dopo un lungo periodo di decrescita, in questi ultimi 3 anni è tornata a salire, attestandosi sul 14% previsto per il 2020. È uno dei più evidenti effetti cicatrice di cui parlavamo all'inizio del podcast, risultato combinato della crisi economica a cui si cominciano ad aggiungere le conseguenze sociali della pandemia. Dalla didattica a distanza alla precarizzazione del personale e dello spazio scolastico, il Covid è un acceleratore di processi già in corso. Anche in questo caso, il bivio a cui ci troviamo di fronte è quello tra l'accettazione di un modello basato sulla estrazione e messa a valore di qualunque settore sociale, compresa l'educazione, oppure il rifiuto di questo modello, a tutela del valore inclusivo della scuola pubblica e dei suoi protagonisti, insegnanti, studenti, famiglie e i territori dove tutti noi viviamo. Se ci pensiamo bene, l'allontanamento dallo spazio fisico della scuola come spazio condiviso corrisponde all'allontanamento proprio dal concetto di cultura come elaborazione condivisa. E su questo il sistema diciamo che fa proprio filotto. E in ultimo, la scuola dematerializzata rappresenta praticamente una perdita per tutta la società perché è uno degli ultimi spazi, forse l'ultimo spazio, dove diverse generazioni portatrici di diversi interessi si incontrano e si confrontano ed elaborano assieme senza avere l'assillo immediato, del ricatto economico.